fiscale italiano è stato accolto con molto favore ed è in linea con le raccomandazioni per raggiungere un pareggio di bilancio nel 2014 e accelerare la riduzione dell'elevato debito. Sentiamo Re. Concerning Italy, I want to say that as regards fiscal policy. Per ciò che riguarda l'Italia vorrei dire che il pacchetto di misure pluriennali di consolidamento fiscale è accolto con molto favore. È in linea con le raccomandazioni per raggiungere un pareggio di bilancio nel 2014 e accelerare la riduzione dell'elevato debito italiano. La Commissione europea guarda con favore e sostiene il serio sforzo di consolidamento dei conti pubblici italiani che è in linea con le nostre raccomandazioni. La Commissione naturalmente monitorerà attentamente la realizzazione delle misure adottate. Le banche europee che non passeranno gli stress test dovranno ricapitalizzarsi, essere ricapitalizzate o ristrutturate e questi piani devono essere pronti prima della pubblicazione dei risultati previsti per venerdì, ha aggiunto Ren. La crisi di fiducia che si è abbattuta in questi giorni sui mercati finanziari colpisce anche l'Italia, ma la minaccia riguarda tutti, riguarda la moneta comune, il segno più concreto dell'unità europea. Così il premier italiano Silvio Berlusconi, che con una nota ha rotto lunghi giorni di silenzio sugli attacchi speculativi. Le autorità europee e i governi nazionali per Berlusconi sono impegnati a fondo per sventare il pericolo di un regresso che ci riporterebbe indietro di 20 anni. Siamo in prima fila in questa battaglia. Intanto la Borsa di Milano torna ad alzare la testa. Alle 9 Piazza Affari apre negativa, meno 1,90%, e in una manciata di minuti scende rapidamente, toccando i meno 4 punti percentuali. I credit default swap, una sorta di assicurazione sul rischio fallimento, crescono a 325 punti, record al negativo, come per lo spread, il differenziale tra i bund tedeschi e i titoli italiani, alle 10,23 e a 347 punti. Sembra ripetersi il copione del lunedì nero, ma il primo scatto arriva poco dopo, quando Giulio Tremonti lascia in anticipo la riunione dell'Ecofin a Bruxelles. Un segnale politico che fa allentare la tensione. Il FTSE MIB contiene le perdite a meno 1,35, lo spread ritorna sotto i 330 punti. Alle 11.18 il Tesoro comunica che l'asta dei bot annuali da 6,75 miliardi è andata bene. Piazza Affari recupera ancora e diventa positiva, più 0,3%, alle 14, dopo che Schifani, ore 13.56, comunica che la manovra sarà approvata dal Senato entro giovedì, dalla Camera entro domenica. Alle 14.25 parla, dopo un lungo silenzio, Berlusconi. Rassicura sull'impegno della maggioranza e dell'opposizione e sulla solidità del sistema Italia. E la spinta definitiva, Milano recupera più 0,7% con i titoli bancari in ripresa. Lo spread BTP Bund scende a 287 punti. A fine seduta il FTSE MIB guadagna l'1,18% e tira un sospiro di sollievo. Per ora. Paola Nania, Radio 24, Sole 24 Ore. Il premier greco Gheorghe Papandreou ha sollecitato i leader comunitari a mettere fine alla loro cacofonia su rimedi utili a fronteggiare la crisi del debito che rischia di diffondersi nel continente. Per Papandreou occorre mettersi d'accordo su un piano comune. Non c'è più posto per indecisioni o errori, ha detto. Intanto proseguirà per alcuni giorni ancora la settimana di passione per l'Europa. Parlando a Madrid, il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha dichiarato che un vertice straordinario dei leader dell'Eurozona venerdì a Bruxelles non è da escludere. Tutte le agenzie di rating che agiscono in Europa dovranno essere registrate, lo ha annunciato Michel Barnier, commissario al mercato interno, notando che le agenzie appartengono a un mercato troppo concentrato e sono tutte americane. Voltiamo ora pagina e andiamo in Gran Bretagna, dove è sempre difficile la situazione per il magnate Rupert Murdoch. Il servizio. Con un'accelerazione imprevista, degna davvero dei grandi scandali, il caso News of the World è ormai diventato il caso Murdoch, ovvero il caso di un gruppo editoriale che per aver utilizzato sistematicamente mezzi illeciti per raccogliere notizie. Il governo si è unito all'opposizione e voterà i comuni contro la richiesta di acquisizione della pay TV di Sky B da parte del tycoon australiano. La compattezza del Parlamento inglese chiude anche le ultime speranze su un deal che è attualmente all'esame dell'antitrust. Murdoch però non si rassegna. Ha disposto il buyback di 5 miliardi di dollari di azioni della sua News Corp dopo che il gruppo aveva bruciato 7 miliardi di capitalizzazione in 4 giorni di scambi, un crollo che non trova giustificazione nei numeri anche al netto della perdita di News of the World, il settimanale chiuso per volontà dell'editore. È il segno di una crescente sfiducia verso un colosso che è d'improvviso un paria nel regno di Elisabetta. tutti prendono le distanze con l'emergere di notizie sempre più inquietanti. Le ultime, lo ricordiamo, riguardano l'ex premier Gordon Brown, spiato per 10 anni, e lo hanno fatto, ha detto, utilizzando persone della malavita organizzata. Rupert Murdoch, suo figlio James e la CEO del gruppo in Inghilterra, Rebecca Brooks, sono stati invitati a deporre davanti alla Commissione Cultura della Camera la prossima settimana. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Bruxelles intende raddoppiare il numero di giovani, insegnanti e ricercatori che ricevono borse europee per studiare e seguire una formazione all'estero. Il loro numero potrebbe passare dagli attuali 400.000 beneficiari l'anno a quasi 800.000. E questo è uno degli obiettivi, ha annunciato Andrulla Vassiliou, commissaria all'istruzione, cultura e gioventù, dell'aumento del 73% dei fondi europei proposto dalla Commissione nel futuro bilancio 2014-2020. Ora gli spettacoli. In principio era il francese Bienvenue chez les Ch'tis. Poi la versione italiana Benvenuti al Sud, che ha battuto tutti i record di incasso in Italia ed è stata esportata in Europa con successo. Ora stessi cast, autori e regista provano a fare l'operazione contraria con Benvenuti al Nord. Il film è sul set ora a Milano, città che spera di attrarre sempre più film e di conseguenza turisti stranieri. Al microfono di Marta Cagnola, il presidente della Lombardia Film Commission, Alberto Contri. Benvenuti al Nord si sta girando in questo momento nel quartiere dell'Isola, che è un quartiere che permette di avere da un lato una skyline della Milano nuova che cresce con i grattacieli, ma contemporaneamente ha ancora delle vecchie stradine con le piazzette come fosse un vecchio paese, insomma, quindi c'è la Milano futura e la Milano di oggi. Cioè, se si fanno queste cose, i film girati come Benvenuti al Sud, per esempio, girato a Castellabate, ha portato un 75% di incremento in questa piccola cittadina. Adesso speriamo in Benvenuti al Nord, ma naturalmente bisogna fare dei progetti coordinati, stiamo meditando di fare un